il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Oggi parliamo di Amarone, si è appena tenuta l'anteprima dell'annata 2013 che è appena stata presentata a Verona e anche quest'anno ci sono delle novità e dobbiamo dire che questo vino, forse il vino clou del Veneto, senza nulla tocco, che è sicuramente il nome più noto, il nome più venduto, però è uno, forse l'altro fiore all'occhiello del Veneto, è un vino che si presenta sempre nuovo, ancora tutto da scoprire e io credo che i veneti stessi veramente lo conoscano molto poco. Quali sono le novità di quest'anno? Dove sta andando l'Amarone? Ne parliamo con Daniele Accordini, che è vicepresidente del Consorzio Vini della Valpolicella e enologo e direttore della cantina di Negrar. Beh, l'Amarone sta continuamente riscuotendo successi a livello internazionale, anche l'ultimo anno ha segnato un più 8% di vendite. È un vino che piace molto più all'estero, è un vino che soprattutto ha bisogno di consumatori che abbiano una capacità di spesa, perché il suo valore è molto alto, ed è un valore che sta tutto nel vino, perché è un vino innanzitutto ha una forte personalità, perché è ottenuto da vitigni autoctoni vuol dire nati nel nostro territorio, cresciuti, che trovano sviluppo e qualità solo nel nostro territorio, Corvina, Corvinone, Rondinella e poi tanti vitigni autoctoni storici come la Croatina, come l'Oseleta, la Dindarella, la Molinara, tutti vitigni che danno un grande carattere a questo vino, ma l'aspetto più caratteristico e unico è l'appassimento. L'Amarone è 100% ottenuto da uve appassite. Un appassimento che parte a settembre, le uve vengono raccolte in piccole, manualmente, in piccole cassette di legno o di plastica da 5-6 kg e disposte in questi fruttai sino a gennaio inoltrato. In questo periodo c'è un calo di peso molto importante che va dal 35 al 40%. Ma non è solamente una disidratazione, c'è una evoluzione di questo, con dei processi, noi li chiamiamo processi biochimici. Cosa vuol dire? Che quando a novembre la temperatura scende, diciamo attorno ai 10 gradi, intervengono queste botrytis nobile, è un fungo che fora la buccia, entra nell'acino, consuma gli zuccheri e produce acido gluconico, glicerina, tutte sostanze che danno anche questo carattere di balsamico, caratteristiche di unicità, di irripetibilità che oggi fanno dell'Amarone un prodotto unico e riconoscibile. Certo che è un vino che trova anche una piacevolezza, questa sua morbidezza, pienezza ed eleganza sono caratteristiche che pochi vini al mondo riescono a dare. Soprattutto oggi in un mercato così competitivo c'è bisogno anche di qualcuno che va in giro per il mondo a presentarlo e l'anteprima oggi è l'occasione importante, perché oggi abbiamo accreditati oltre 230 giornalisti, di cui 50 esteri. Ecco, parliamo di Amarone, però pochi forse sanno che l'Amarone è in qualche modo figlio del Recioto, il vino di base è quello, i vitigni sono quelli, i vigneti sono quelli, le uve sono quelle, però ci sono due strade diverse. Qual è la differenza? Come si fanno questi due vini? Allora, l'Amarone è vero, è figlio del Recioto. Il Recioto è un vino che già al periodo dei Romani veniva fatto in Valpolicella, allora si chiamava vino acinatico, poi vino retico. Il nome Recioto compare a metà dell'Ottocento e il gusto dolce ottenuto da uve passite resta fino ai primi del Novecento. Il Recioto ha una tecnica di appassimento molto più lunga, c'è bisogno di ottenere una concentrazione zuccherina elevatissima, abbiamo ad esempio un calo oltre il 50%, le uve sono uguali dell'Amarone, è solamente la tecnica di appassimento, si allunga circa 30-40 giorni in più, ma poi la caratteristica più importante è che a differenza dell'Amarone il vino è dolce perché la fermentazione viene a un certo punto interrotta, quando l'equilibrio fra alcol e zuccheri viene ritenuto idoneo, cioè quando c'è circa 12-13 gradi alcolici e un residuo zuccherino di 120-140 grammi litro, il produttore svina, cioè separa il raciotto dalle bucce, dalle bucce, e lo cerca di raffreddarlo, di pulire questi lieviti e interrompere la fermentazione. È un vino che ha delle caratteristiche molto diverse dall'amarone, questa frutta di ciliegia sottospirita, questa nota di marasca, frutta passita. È un vino anche che ha una posizione nel pranzo completamente diversa, se mentre l'amarone si usa con le carni o vino da meditazione, mentre il raciotto viene usato solitamente come vino da dessert o comunque da, con tutti i dolci secchi o con il cioccolato. È un vino che, diciamo, fino a metà del Novecento era principe in Valpolicella, perché fino agli anni 1940 si produceva il 90% di uve passite, era destinata alla produzione di raciotto. Col successo che ha avuto l'amarone, il quantitativo di raciotto è rimasto uguale e oggi il raciotto rappresenta nel panorama del Valpolicella dal 2-3% di produzione. Ci fermiamo per qualche minuto, a tra poco. Il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita. Diamonds under pressure. torniamo in linea con il quadrifoglio. Oggi stiamo parlando di Amarone, Amarone da Valpolicella, e stiamo parlando con Daniele Accordini, direttore della cantina di Negrar e vicepresidente del consorzio dei vini della Valpolicella. Si parla molto oggi di sostenibilità e il mondo del vino è sotto i riflettori e qualche volta anche sotto accusa, perché anche forse è molto visibile, molto spesso si vede tra i vigneti, si vedono appunto passare macchinari che fanno dei trattamenti e sappiamo che ne servono spesso tanti. Il consorzio dei vini della Valpolicella ha lanciato una proposta che è quella delle 3R, un disciplinare, di fatto un protocollo per andare verso la sostenibilità. Certo, noi come consorzio abbiamo aderito al cambio di concetto del vino. Se in passato il vino era un alimento, poi è diventato un bene voluttuario, oggi è un bene anche salutistico. Le persone, come noi quando andiamo a fare gli acquisti, ai vari supermercati, ai vari negozi, vogliamo non solo dei prodotti piacevoli, ma vogliamo dei prodotti salubri. E la salubrità del prodotto è uno degli primi aspetti, ma per avere un prodotto salubre bisogna avere un territorio salubre. Quindi noi abbiamo lanciato un progetto, si chiama Risparmia, Riduci, Rispetta, dove viene coinvolto il paesaggio, quindi cercare di aderire tutti i viticoltori a un protocollo che prevede una riduzione di prodotti antiparassitari hanno un minimo con dei prodotti che magari hanno un effetto anche abbastanza blando, molto più leggero, e con delle tempistiche ben guidate, senza usare i vecchi metodi a calendario dove ogni settimana, a prescindere dalle condizioni meteo, si trattava. Quindi può essere una riduzione degli interventi dal 20-30%, soprattutto avere anche per noi operatori, che siamo i primi a essere in contatto con questi pesticidi, un minor contatto che parte dalla difesa, diciamo, nostra, fisica, per arrivare al paesaggio, per arrivare poi al prodotto finale del consumatore, che avrà un prodotto con zero pesticidi e comunque molto più salubre e molto più piacevole. Quindi il vino oggi non è solo più un piacere, ma anche un bene salutistico. Ma i produttori nelle cantine, diciamo, come vedono questa proposta? Temono, non so, magari la perdita di prodotto o d'altro, oppure avete avuto una discreta adesione? No, non è una perdita di prodotto, perché le pratiche sono, diciamo, assimilabili alle altre. Come sempre, quando entra qualche progetto nuovo bisogna prima di tutto capire il significato, e penso che è partito lo scorso anno, ma quest'anno avrà un notevole incremento. Noi stessi con i nostri viticoltori abbiamo 2 giorni fa fatto un convegno per cercare di promuoverlo, e siamo sicuri che avremo una grande adesione. È logico che occorre sempre uno starter e poi altri si avvicinano. Non ha delle grandi difficoltà, ha bisogno di un approccio culturale, e le nuove generazioni sono molto molto vicine a questi aspetti. Lei quando diceva noi stessi probabilmente intendeva non il consorzio ma la cantina di Valpolicella di Negrar, di cui lei è direttore, e quindi volevo chiederle: anche voi avete delle novità, avete scelto di puntare sulla qualità, di mettere davanti un nome che è quello di Domini Veneti come il marchio della qualità, ma anche nello stesso tempo di puntare molto sulla valorizzazione di, chiamiamoli, cru, quindi non c'è uno solo Amarone, ce ne sono molti che avete, ma questa mi pare anche sia una caratteristica un po' generale, questa cercare di crescere nella qualità e anche di diversificare all'interno di uno stesso produttore o cantina anche i vari cru, quindi il meglio che può offrire al mercato. Certo, noi siamo una cantina cooperativa, Domini Veneti è il nostro brand commerciale, ci siamo chiesti più volte come possiamo dare il nostro contributo qualitativo a questo lavoro. Un lavoro che non deve essere solamente vinificare le uve, non deve essere solamente imbottigliare, ma deve per noi significare mettere in bottiglia i valori di ogni territorio che noi abbiamo. Abbiamo circa 700 ettari dislocati in vari territori, in territori anche di eccellenza, in ognuno dei 5 comuni classici della Valpolicella: Negrar, Fumane, Sant'Ambrogio, San Pietro in Cariano, Fumane. Noi abbiamo detto, prima abbiamo fatto circa 5 anni di sperimentazione, microvinificando dei vigneti posizionati in esposizioni particolarmente favorevoli. Poi abbiamo detto dobbiamo questa esperienza renderla proficua e portarla direttamente al consumatore. Quindi abbiamo vinificato a parte questi vigneti con esposizioni diverse, con inclinazioni diverse, con piovosità, con escursioni termiche diverse, e abbiamo mantenuto tutte le tecniche di vinificazione, di appassimento costanti per tutti e 5 questi diversi Amaroni. pensando che l'unica differenza sia solamente quella del territorio. Cinque amaroni che non sono solamente un grande amarone, ma sono cinque espressioni diverse della nostra Valpolicella classica. Grazie. Abbiamo ancora il tempo per un paio di notizie. Martedì 7 febbraio si terrà a Bruxelles, nella sede del Parlamento europeo, un importante convegno sul tema utilizzo sostenibile dei pesticidi in viticoltura. Al convegno parteciperanno molti esperti europei e PEN Europe, una rete di organizzazioni che lavora per ridurre gli effetti dei pesticidi sull'ambiente, ha organizzato una diretta web streaming con traduzione in italiano. La proiezione si potrà seguire in due sedi venete, ovvero all'Istituto Stefani Bentegodi di San Pietro in Cariano in provincia di Verona, presso il CIRVE dell'Università di Padova a Conegliano, e ripetiamo, martedì 7 febbraio dalle ore 15 alle 18. Infine, il ristorante La Torre di Monselice ha vinto il premio Cucina Identità del Territorio 2016 dato dalla rivista Con i Piedi per Terra e dal giornalista enogastronomo Renato Malaman. La rivista lo ha eletto come ristorante che meglio rappresenta i sapori e la tradizione enogastronomica della passa padovana e dintorni per l'impiego in cucina delle materie prime locali, la stretta osservanza alla stagionalità, la rielaborazione della tradizione con fantasia e creatività, l'abbinamento ai vini e, ovviamente, il rapporto qualità-prezzo. Con questo è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima settimana, ci potete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita, in collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.